Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che capovolge l'agenda delle notizie e mette gli altri animali, gli animali non umani, in pole position in ogni tipo di dibattito. Ci occupiamo e ci preoccupiamo degli altri animali quando si parla di attualità, di cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e tutto il resto. La domanda che sta al fondo delle nostre riflessioni è sempre questa: come sarebbe la vita sulla Terra se negoziassimo un nuovo patto di convivenza più equo con i viventi non umani? Le nostre puntate rappresentano alcune risposte a queste domande. Questa è la puntata numero 564, nella quale parleremo di cosa c'entra l'incentivo del 110% con i rondoni, di scrofe ingiustamente allevate in gabbia, di cavalli vittime dell'ippica e di conigli nani di Sardegna e altre vittime del cambiamento climatico. Ci sarà spazio per una ricetta e per tanta buona musica, tutto a cura del nostro Gabriele Palloni, chef e DJ. Speriamo di avervi incuriosito. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Cominciamo la nostra carrellata di notizie da Trieste, dove una specie migratoria protetta è stata messa in enorme difficoltà dal dilagare delle ristrutturazioni, che sono esplose in modo incontrollato con gli incentivi del 110%. Non ci interessa adesso valutare l'importanza di una specie rispetto a un'altra, ma solo stigmatizzare un fatto, cioè che di fronte all'economia anche le poche protezioni di cui godono solo alcuni animali crollano. Andrebbe quindi ripensato il concetto stesso di città nella sua essenza, come luogo di coabitazione, di coesistenza, dove la specie umana è solo una tra le molte altre specie. Sentiamo la testimonianza di Silvana, fondatrice del centro di recupero per rondoni, rondini e balestrucci liberi di volare Onlus di Trieste, che è già stata più volte ospite della nostra trasmissione. From the cradle bars comes a beckoning voice that sings spinning. You have no choice. Quest'anno sembrano esserci meno rondoni nel cielo, forse è la nostra sensazione, meno colonie, almeno nel cielo di Trieste. O forse sono le ristrutturazioni che continuano imperterrite. Trieste è tutto un cantiere. Gli arrivi sono tanti al nostro centro di recupero, soprattutto di adulti. Continuano ad arrivare dal mese di aprile ad oggi. Tantissimi adulti imbattati, schiantati contro le impalcature o a poca distanza da un palazzo in ristrutturazione si trovano per terra ed è veramente una pena immane. Poi adesso hanno cominciato ad essere conferiti i piccoli, i pulli che cadono dai nidi, magari perché dove ci sono le impalcature quest'anno i genitori non riescono ad entrare. Noi stiamo facendo un lavoro immane, non solo di riabilitazione, ma anche di conservazione. Ma in questo periodo, che tutto diventa più importante e il lavoro è esponenziale, è difficile, credeteci, seguire entrambe le cose, la tutela degli habitat e la riabilitazione. Nonostante tutto, continuiamo ancora a contattare ditte, amministratori. Lì dove abbiamo potuto, abbiamo completato l'opera, nel senso che sono stati anche messi nidi, sono stati collocati, installati nidi artificiali dove erano stati tolti. Fino ad oggi una cinquantina di nidi sono stati installati in fari stabili a Trieste. Ne dovranno essere installati altri. Abbiamo in corso d'opera un progetto che prevede l'installazione di almeno 70 nidi per un comprensorio a Trieste di 16 palazzine, perché lì una ditta si è rivelata molto molto sensibile, un'amministrazione stabile molto sensibile. L'ultima nostra impresa è aver strappato alla morte tre piccini che sarebbero finiti murati vivi dentro uno stabile se non si fosse accorto un ragazzo che li sentiva pigolare dalla sua camera da letto, dove la sera questo pigolio era incessante e non capiva. Alla fine è spaccato il muro di casa, dentro casa. Sono stati trovati questi tre piccini a cui i genitori non potevano più accedere nel nido perché i ferri dell'impalcatura ne ostruivano l'entrata e i genitori si disperavano. Alla fine, finalmente, siamo riusciti a liberarli e oggi stanno crescendo con noi. Speriamo di poter liberare presto Bisbiglio, Tamburino e Mirtilla. Questo è quanto vi possiamo dire oggi. Preghiamo veramente di avere una grossa sensibilità verso questa nostra biodiversità, avifauna, molto maltrattata. Questo è l'appello che vogliamo lanciare. Prima di costruire palazzi, di ristrutturare, pensiamo che dentro i nostri palazzi esistono dei veri tesori, tesori di biodiversità che meritano rispetto. Silvana oggi sta ospitando 300 individui. I rondoni non sono animali che si nutrono autonomamente quando stanno in cattività, né aprono il becco come altri uccelli quando si tenta di imboccarli. Quindi il lavoro di chi deve accudirli è veramente molto impegnativo e può essere svolto solo da persone esperte. Per aiutare l'associazione Liberi di Volare Onlus di Trieste si può donare il 5 per 1000 oppure basta andare su Facebook, cercare Associazione Liberi di Volare 2012 oppure ancora troverete informazioni su come aiutare nel sito internet liberidivolare2012.com. Una nuova videoinchiesta sulle sofferenze a cui sono sottoposte le scrofe allevate in gabbia è stata condotta dall'associazione CWF, Compassion in World Farming, ed è stata presentata in Italia all'interno della campagna europea End the Cage Age contro le gabbie negli allevamenti e frutto di una larga coalizione di associazioni di tutta Europa. Una campagna che ha portato a una importante iniziativa di cittadinanza attiva a livello europeo. L'inchiesta di CWF ha coinvolto 16 allevamenti situati in Francia, Spagna, Polonia e anche Italia. Quindi, sì, anche in aziende agricole italiane che riforniscono marchi considerati di eccellenza, come il prosciutto crudo di Parma, le scrofe sono costrette in gabbie dove possono stare solo in piedi o sdraiate. Queste gabbie sono così piccole da impedire qualsiasi tipo di movimento. Gli animali devono giacere sulle proprie deiezioni e sull'urina e sopportare la sofferenza di non essere in grado di prendersi cura come vorrebbero dei loro piccoli. Per questo motivo le scrofe sono stressate e manifestano un senso di frustrazione con comportamenti anomali come mordere le sbarre e masticare a vuoto. La videoinchiesta ha rivelato una tragica verità, della quale in Italia eravamo già al corrente grazie all'incessante lavoro di investigazione svolto dagli attivisti di varie associazioni, tra le quali spicca l'associazione Essere Animali. Per commentare questa notizia abbiamo dunque sentito Francesco Ceccarelli, responsabile investigazioni di Essere Animali. Nei giorni scorsi CWF, Compassion in World Farming, un'organizzazione internazionale per la protezione degli animali, ha rilasciato un'indagine dove hanno documentato le condizioni delle scrofe nelle gabbie degli allevamenti intensivi europei di maiali, Italia compresa. Le scrofe sono le femmine di maiale utilizzate negli allevamenti come riproduttrici, quindi le madri dei futuri maiali che poi verranno trasformati in carne e salumi. Per massimizzare la produzione, questi animali vengono tenuti circa metà della loro vita in gabbie, dove non riescono nemmeno a girarsi su se stesse. Questo sistema permette all'allevatore di ottimizzare i tempi, sprecare meno risorse durante quelle fasi di inseminazione che avviene in modo artificiale e nello svezzamento dei suoi netti. Solo in Italia sono 550.000 le scrofe negli allevamenti, oltre 10 milioni in Europa, e si stima che l'80% di loro siano allevate in questo modo. Anche per i prosciutti DOP, considerati i prodotti di eccellenza del Made in Italy, tra cui il famoso prosciutto di Parma, il sistema di allevamento è lo stesso, quindi prevede l'utilizzo delle gabbie come in qualsiasi altro allevamento intensivo di maiali. Voglio ricordare che in Italia un maiale allevato su due viene venduto con il marchio prosciutto di Parma e nel 2021 sono stati 4 milioni i maiali macellati con questo marchio. Il 36% di questo prosciutto DOP viene esportato. All'interno della strategia della campagna di CWF c'è stata la richiesta al governo del Regno Unito, dove il prosciutto di Parma è importato, di vietarne la vendita. Questo perché in UK dal 1999 è vietato l'utilizzo delle gabbie, per cui per una questione di coerenza rispetto alle leggi nazionali chiedono il divieto della vendita del famoso prosciutto italiano. La sensibilità delle persone nei confronti degli animali è cresciuta notevolmente negli ultimi anni ed è arrivato il momento che anche le istituzioni facciano la loro parte per stare al passo dei tempi. È ora di cambiare le leggi sulla protezione degli animali, regole vecchie e anacronistiche che consentono ancora procedure e una gestione degli animali che provoca la loro sofferenza, sofferenze confermate anche dalla comunità scientifica. Ultimamente l'Europa, spinta dalla campagna End the Cage Age, promossa dalle principali associazioni animaliste, che ha visto la raccolta di oltre 1 milione di firme, ha ottenuto l'impegno da parte della Commissione europea di vietare l'utilizzo delle gabbie negli allevamenti europei. Ma la battaglia non è ancora vinta, perché ogni proposta legislativa deve venire adottata dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, per cui bisogna continuare a lottare per ottenere delle migliorie legislative. La strada è molto lunga, è ancora lunga, e i governi sono lenti e fanno ostruzioni anche per i piccoli cambiamenti, per cui bisogna continuare a impegnarsi e cercare di ottenere dei risultati concreti per gli animali. Ovviamente superare le gabbie negli allevamenti non significa liberazione animale, ma quello che si realizza attraverso queste campagne è una rara occasione di ottenere attenzione da parte dei media e di poter parlare di animali, della loro condizione. In questo modo è possibile gettare un fascio di luce sulla durissima realtà degli allevamenti, che viene continuamente rimossa dalla nostra coscienza. E anche così si risvegliano le persone più sensibili e si attiva, si spera, una nuova generazione di attivisti e attiviste pronte a impegnarsi per superare lo sfruttamento animale in modo finalmente radicale. Il 4 luglio ad Abbasanta, in provincia di Oristano, in Sardegna, il cavallo Corona Claudius, un baio del 2004, è morto stroncato da un infarto. Aveva appena terminato la gara di salto a ostacoli disputata alle 13:30 a una temperatura di 40 gradi. Questa storia tristissima è solo una tra le tante. Nell'ultimo mese sono trapelate molte notizie relative alla morte di cavalli sfruttati durante le ore più calde del giorno. Proviamo a fare un breve inventario. Il 29 giugno scorso, all'ippodromo del Savio di Cesena, in Romagna, Carabela, una cavalla puro sangue di 4 anni, è morta in pista durante la prima serata della stagione 2022. Il 30 giugno, quindi il giorno dopo, intorno alle 17:30 a Firenze, in via Calzaioli, quindi pieno centro, la cavalla Fernanda, di 13 anni, si è casciata, lasciando a piedi i turisti che trainava nella carrozza. «Noi non maltrattiamo gli animali», ha subito dichiarato il suo conduttore, ma la veterinaria fiorentina Francesca Batacchi, intervistata da alcuni giornali, ha dichiarato: «Il viaggio in carrozzella è semplicemente anacronistico e andrebbe abolito». Sempre ai primi di luglio, dopo le prove del Palio di Siena, il Comune di Siena ha dovuto intervenire per imporre lo stop a due cavalli infortunati. Van Cook, il cavallo della Civetta, e Schietta, il cavallo dell'Istrice, che infatti non hanno partecipato alla competizione. I contradaioli, pensate, non hanno accettato questa interferenza e hanno inscenato un sit-in di protesta. Evidentemente volevano che i cavalli infortunati andassero comunque in pista. Un episodio triste che mette a nudo la verità sul presunto e tanto sbandierato amore dei contradaioli senesi per i loro cavalli. 1 luglio, Ore 13:15, a Matera, un cavallo che trainava una carrozza è stramazzato a terra, morendo a causa di un infarto. A Seneghe, in provincia di Oristano, il 2 luglio un cavallo è morto durante la tradizionale ardia in onore di Santa Maria della Rosa. È accaduto intorno alle ore 12, quando la temperatura era di 36 gradi. Dream Stecca è morta il 15 luglio scorso all'ippodromo di Cesena durante la sua 7ª gara. Aveva 3 anni ed era poco più di una puledra. Far gareggiare i cavalli con il caldo, quando tutti sappiamo quanto sia difficile compiere anche azioni ordinarie, ci sembra l'ennesima prova di come l'ippica non tenga in gran conto il benessere, l'incolumità e la vita dei cavalli. Abbiamo chiesto un commento a Sonny Richichi, presidente dell'Associazione Italian Horse Protection, l'istituzione italiana più importante a tutela della salute, del benessere e della vita dei cavalli. Purtroppo in questo inizio estate 2022 sono riprese tutte le competizioni che hanno come oggetto di uso e sfruttamento i cavalli, dai pali all'ippica, alle competizioni equestri, quindi concorsi ippici, salto ostacoli, dressage, eccetera. Poi ovviamente il fenomeno delle carrozze in città. E in tutti questi ambiti sono registrati o incidenti o disavventure o comunque abusi e in qualche caso, secondo noi, anche maltrattamenti su cavalli. L'ultimo in ordine di tempo è la morte di un cavallo alla fine di un concorso ippico in provincia di Oristano, organizzato sotto l'egida della FISE, che è la Federazione Italiana Sport Equestri, che fa parte del CONI, quindi un ente di emanazione pubblica che ha organizzato per vari fine settimana di luglio, quindi in piena ondata di calore ormai denunciata e raccontata da tutti i media nazionali da giorni e giorni, dei concorsi ippici i cui programmi prevedevano anche delle gare nelle fasce orarie centrali del giorno. Una assurdità che noi avevamo denunciato qualche giorno prima della morte di questo cavallo, dicendo che era assurdo far gareggiare dei cavalli a queste temperature, in certi orari e senza accorgimenti particolari. E non siamo stati ascoltati, non ci ha ascoltato la FISE, non ci ha ascoltato in questo caso specifico la Regione Sardegna, che attraverso un suo ente è addirittura organizzatore di questo evento che si è tenuto in provincia di Oristano. Ci ha lasciato la pelle un cavallo, ma soprattutto, ancora una volta, vediamo fuori l'immagine di un mondo, quello delle competizioni equestri, che dimostra di non avere assolutamente a cura e in animo la tutela dei cavalli, il benessere degli stessi. Sono parole scritte e riscritte da chiunque parli delle competizioni equestri, dicendo che i cavalli sono assolutamente sotto le migliori cure. In realtà, ancora una volta, viene dimostrato che l'unico scopo di queste persone è portare avanti o un obiettivo economico, che è quello legato ai concorsi ippici di taratura più elevata, oppure un divertimento sulle spalle di animali, indipendentemente da quale che sia la loro eventuale sofferenza, o addirittura il rischio di incidenti o di morte. E in questo luglio del 2022 ne abbiamo viste di vario genere. IHP continua la sua battaglia contro qualsiasi utilizzo dei cavalli nelle competizioni sportive di qualunque genere, contro qualunque uso dei cavalli comunque di natura commerciale, al di là che ci sia una competizione o meno. Tentiamo di convincere l'opinione pubblica a fare pressione affinché tutto questo venga fermato, perché ormai la maggior parte dei cittadini sono ogni giorno più indignati di fronte a queste scene. Thank you. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free ai cavalli vittime dell'ippica. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cavalli, cavalli, cavalli, ma che le volete lasciare in pace queste povere bestie? Se voi state buoni e voi mi date retta, vi racconto la ricetta dei cavallucci, che questi voi li potete prendere anche a morsi, tanto che sono buoni. Ah, la ricetta viene da Siena, che anche da quelle parti ho cavalli. Ingredienti per 4 persone, circa 12 biscotti, per i cavallucci senesi sono 320 g di farina di grano tipo 0, 180 g di zucchero di canna, 90 ml di acqua, 50 g di malto di orzo, 60 g di canditi d'arancio e cedro, 100 g di noci sgusciate, 5 g di crema al tartaro, un cucchiaino di spezie miste in polvere tra anice, cannella, coriandolo, noce moscata e dello zucchero a velo. In una casseruola fate sciogliere a fuoco lento lo zucchero di canna nell'acqua. Dovete ottenere uno sciroppo, facendo attenzione a non caramellarlo. Quando lo sciroppo inizierà ad addensarsi, facendo delle bolle più spesse, togliete dal fuoco e aggiungete il malto d'orzo. A parte tritate le noci grossolanamente, quindi unite la farina, i canditi e le spezie. Aggiungete lo sciroppo di zucchero e lavorate con un cucchiaio e successivamente con le mani. Solo in caso necessario aggiungete pochissima acqua. Dovete ottenere un impasto compatto che tenderà a sbriciolarsi. Formate dei dolcetti rotondi abbastanza grandi, circa 5 cm di diametro. Adagiateli su una placca da forno e fateli cuocere a 160 gradi per 20 minuti in modalità statica. Quando saranno cotti lasciateli riposare per una giornata in modo che siano compatti e gli aromi si siano ben amalgamati. Spolverate con zucchero a velo prima di servirvi. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 655 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.